Episodio 18. 23-24. Ascolta il brano. Sono traduttore dall'italiano all'italiano. A me danno un foglio con scritto: il vostro strumento elettrico ha strongly paura di acqua o umidore. Stipare in luogo libero da acqua o umidore. In alternativa può occorrere scottatura o morte. Con i complimenti, Sony. E io traduco: teme l'umido. With compliments, Sony. Il mio è un lavoro semplice. Nell'autunno 2002 la comunicazione funziona secondo un principio elementare. La gente guarda con raccapriccio alla prospettiva di rinunciare a qualcosa. Tutto qua. Noi del settore abbiamo la strada spianata. Per avere successo basta promettere il soddisfacimento di un bisogno e allo stesso tempo del bisogno opposto. Vuoi l'avventura? L'avrai e in tutta sicurezza. Una religione? Eccola. E per farne parte non è necessario crederci. Un quintale di panettone? Mangialo e dimagrirai. Il panettone è un dolce da forno tipico milanese. Gli stranieri tendono a confonderlo con alcune forme di muffin, Inghilterra, o di Kugelhupf o di Kranz, Germania, o di Strudel, Austria, o altri dolci a pasta lievitata con frutta candita e uvette. Elio Marali è il titolare dell'agenzia per cui lavoro, la EM. Marali è il mio capo. La EM è un'agenzia di comunicazione globale, un service, lo chiama Marali, che offre un'infinità di prestazioni. Pubbliche relazioni, pubblicità, internet, TV, ma anche servizi per l'editoria, pezzi di giornale per tutti i tipi di giornali, ideazioni di eventi, contenuti per telefonia. Lancio di tutto, promozione di aziende, di persone, di groups, di negozi, di qualunque aggregazione di antropoidi in grado di pagare una fattura. Marali non si ferma davanti a niente. Di ogni cosa che è successo dice: è mia, l'ho inventata io. Io la facevo già 15 anni fa.